16.09, ritorniamo in diretta agli studi di Blackout con un leggerissimo ritardo, comincia interferenza la puntata di oggi, domenica 3 febbraio, e insomma c'è un grandissimo sole che batte sulle finestre degli studi di Via Cecchi, qui l'aria microfoni quest'oggi da sola, senza la compagnia delle socie di Sguardi Sui Generis, a cui mando un saluto, insomma colpa degli esami lontane dai microfoni. Io vi ricordo i contatti per poter interagire con noi, con le dirette di Blackout, sia con i messaggini, con i servizi acisti, con gli squillini, con tutte le comunicazioni per cui i microfoni della radio sono sempre aperti. E allora il numero fisso è 011 24 95 669, mentre il cellulare 346 66 73 263. Gli argomenti di oggi spazieranno dall'India all'Aquila alla Val di Susa, insomma andremo un po' qua e là, per finire con una lettura dall'Egitto. E invece per quanto riguarda la scelta musicale di quest'oggi, verterà sul duo Dresden Dolls, di cui parleremo tra poco. Adesso vi lascio con una loro canzone, insomma chiunque voglia sentirsela dedicata, questi sono My Alcoholic Friends, tratto dal loro secondo album. I'm counting back the number of the steps it took for me to get back on the wagon of the weekend. I'll use the old time, burn through it all, get home with my imagination. If they find the body in the basement, in the very house that she was raised in, I'm the first to call them. I'm taking E quindi torniamo in diretta, cominciamo a raccontarvi un pochino di questo duo che state ascoltando, Dresden Dolls, duo che si autodefinisce punk cabaret statunitense di Boston. I due insomma membri del duo appunto sono Amanda Palmer, che insomma è già famosa per aver portato avanti dei progetti solisti, e Brian Viglione, che invece è una parte strumentale. Insomma, il duo nasce nel 2000, quando la notte di Halloween a una festa i due si incontrano. Oltretutto, insomma, facciamo anche un po' di gossip, i due sembrano essere fidanzati, almeno mi dicono qua gli ospiti in studio. Noi adesso però passiamo alla parte insomma di contenutistica della puntata, e cominciamo parlando di Israele, una notizia che arriva dall'inizio di questa settimana. Notizia che arriva dal canale 23 della rete televisiva, delle reti televisive israeliane, Israeli Educational Television, ripreso da alcuni blog in italiano e ripreso anche dal Manifesto. C'è un articolo di Michele Giorgio che ci riporta la notizia. La notizia è questa: alcune donne etiopi insomma di etnia etiope ma di religione ebraica, che sono da molto tempo insomma state portate in Israele tramite degli aiuti umanitari che insomma erano volti a portare le popolazioni etiopi appunto di religione ebraica dentro gli stati di Israele durante una crisi umanitaria nella zona del Corno d'Africa. Insomma, quello che è successo è che sembra che il Ministero della Salute israeliano abbia somministrato un contraccettivo molto potente e di lunga durata senza il consenso di queste donne migranti. Questa somministrazione un po' giocata sul fatto che veniva proibito l'ingresso in Israele se non si accettava di farsi somministrare il farmaco, è un po' giocata anche sul fatto che per questioni di lingua si ingannavano queste donne raccontando loro che questo si sarebbe trattato di un di una medicinale di prevenzione, di un altro tipo di medicinale appunto necessario per poter essere ammessi dentro lo Stato di Israele. È venuta alla luce insomma questa somministrazione che ha data da almeno 10 anni. L'inchiesta TV è andata in onda a dicembre, però ci ha messo decisamente molte settimane prima di venire alla luce in Italia, e sicuramente è venuta alla luce in maniera molto soffusa, ecco, non è andato sui giornali più importanti, sicuramente non in prima pagina. Il medicinale di cui stiamo parlando è il Depo-Provera, che appunto era richiesto come requisito per mettere piede nello Stato ebraico, ha raccontato una delle donne. Questa versione trova conferma in decine di altre connazionali di questa donna, tanto da muovere l'Associazione dei Diritti Civili in Israele, che insomma ogni tanto sembra servire a qualcosa. Insomma, le donne sembrano essere praticamente tutte etiopi, quelle a cui è stato somministrato questo farmaco, ed è chiaramente una politica dello Stato di Israele per ridurre il numero delle nascite in una comunità di colore, soprattutto povera, anche se ebrea. Insomma, ufficialmente non dovrebbe essere successo questo uso del farmaco, ma le prove sono più che documentate, e soprattutto la questione è che i medici israeliani si sono sempre, seppur in dotazione di questo farmaco, si sono sempre rifiutati di somministrarlo alle donne israeliane. Scusate, insomma, questo racconto è abbastanza agghiacciante, non solo per il fatto che appunto si tratti di una somministrazione di un farmaco anticoncezionale a insaputa di queste donne, ma per la selezione direi proprio razziale con cui veniva somministrato questo farmaco, tanto che appunto l'articolo sul Manifesto si intitola proprio l'anticoncezionale razzista. Insomma, oltretutto tutti questa inchiesta viene correlata dal fatto che praticamente tutte le donne etiopi che risiedono in Israele hanno subito un calo della natalità, qualcuno dice del 20%, qualcuno addirittura del 50%, insomma io credo che la questione vada sicuramente raccontata dai microfoni della radio, ma andrebbe anche approfondita da altri punti di vista. Non mi dilungo troppo sulla questione del perché questo farmaco sarebbe stato somministrato, perché di notizie ufficiali non ce ne sono, ma sicuramente salta palesemente all'occhio come si tratti di un'operazione razziale, una cosa che non ci sorprende da parte dello Stato di Israele, che però fino a questo momento non sembrava aver rivolto le sue modalità fascistoidi nei confronti delle persone di religione ebraica, ma evidentemente la questione razziale del colore della pelle è per loro più importante della religione. Insomma, vi lascio con un po' di musica, ancora sempre dal duo Dresden Dolls, e poi riprendiamo con le notizie. Thank you. the Saturn, that's the way. It was in Oklahoma, that's the way. It's been since birth, I first got married. Shores of California, she's been trying to manage to test it. Get me to turn out the lights and dress, cause like any girl, all she really wants is that cute little bitch romance. That cute little bitch romance. Sempre i Dresden Dolls, Shores of California. E adesso cambiamo decisamente posto, passiamo da Israele all'India. Ultime notizie, insomma un flash semplicemente su quello che sta proseguendo riguardo al dibattito in seguito a tutte le manifestazioni che si sono date nelle scorse settimane per le strade di Nuova Delhi e non solo, manifestazioni che tendevano a porre l'attenzione sul fatto che la cosiddetta cultura dello stupro, come viene raccontata dai giornali all'interno dell'India, non è un fatto che viene dato così per buono. Insomma, migliaia di donne e di uomini sono scesi in piazza per raccontare come per loro la situazione debba cambiare, debba essere diversa, ma naturalmente i nostri giornali continuano a raccontare semplicemente una versione dell'India un po' barbara e decisamente molto forcaiola. E in questo caso parliamo della Stampa di due giorni fa, che titola in un articolo l'India verso la pena di morte per gli stupri più gravi. Qualcuno dovrebbe spiegare alla Stampa o comunque a chi ha deciso di chiamare stupri più gravi, insomma dovrebbe spiegargli che non esistono stupri più gravi, insomma una violenza sessuale è una violenza sessuale. Insomma, sembra che a sentire le parole del giornalista della Stampa potrà la pena di morte, che è una pena praticamente mai utilizzata negli ultimi 20 anni in India, voglia essere estesa anche a, insomma, colpevoli di crimini sessuali e di violenze. e questa, la questione della pena di morte in India è anche tornata in auge quando si parlava della vicenda dei due Marò, insomma, che dovevano essere difesi a tutti i costi da questi barbari indiani che praticano la pena di morte, senza ricordare che insomma i primi a praticare la pena di morte, soprattutto per questioni di numeri, sono gli statunitensi, però a loro non si può dire niente, mentre gli indiani, che sono barbari evidentemente un po' animali, possiamo trattarli male, insomma sentirci superiori dal punto di vista legislativo. Insomma, sembra che questa proposta di legge venuta fuori da una commissione ad hoc dei ministri indiani, che deve essere ancora approvata sia dal Presidente del Parlamento che dal Parlamento stesso, contiene un raddoppio della pena per uno stupro di gruppo o su minorenni, la pena di morte nei casi in cui la vittima muoia o rimanga in stato vegetativo. Mi sembra veramente una proposta di legge agghiacciante, soprattutto perché sicuramente non, come conosciamo sia dalle nostre parti che dalle parti insomma in tutto il mondo, l'inasprimento delle pene non è mai servito a niente. E a proposito di questo, torniamo pure alle nostre coste, ai nostri lidi, parlando dell'Aquila. L'Aquila, che a proposito di questo è il teatro di un processo per stupro che si protrae da alcuni mesi e di cui la radio ha dato già notizia con una diretta di tutta una mattinata informativa dalla prima udienza. Questo giovedì si è tenuta l'ultima udienza appunto all'Aquila. Il militare Francesco Tuccia, di stanza all'Aquila, è stato accusato e quindi giudicato colpevole, condannando quindi a 8 anni di carcere. Il PNM ne aveva chiesti 14, leggo dalla cronaca di Repubblica di quel giorno, ma è decaduta l'accusa di tentato omicidio, nonostante il fatto che, aggiungo io, la ragazza sia praticamente viva per miracolo, trovata in fin di vita in mezzo alla neve durante la notte una notte dell'inverno scorso. L'accusa aveva chiesto appunto 15 anni e tentato omicidio. La ragazza all'epoca dei fatti aveva dichiarato: quelli mi volevano uccidere. È ritenuto colpevole dell'accaduto, di uno stupro di gruppo appunto. Tuccia fu arrestato alcuni giorni dopo e chiuso nel carcere di Teramo. All'epoca dei fatti era appunto militare del reggimento di artiglieria terrestre di stanza all'Aquila, tra l'altro di stanza messo lì per l'operazione sicurezza all'Aquila. Aggiungo un commento trovato raccolto dal sito di Baruda, Polvere da Sparo, insomma, che fa una riflessione su quello che vuol dire fare un processo per stupro. La questione non è tanto il fatto di sancire una persona che vada in carcere per 8 anni, come se fosse un, in qualche modo un ripagare la vittima di qualcosa, ma la questione è chiaramente quello di portare all'attenzione, alla luce dei giornali, la vicenda in sé. Io, prima di continuare questa riflessione sulla vicenda dell'Aquila e sulle, insomma, come è stata trattata dai giornali, vi lascio con un audio del martedì femminista lesbico di Radio Onda Rossa, che presenta assieme a uno degli avvocati presenti quel giorno in tribunale, come prima della sentenza, racconta un pochino i fatti della vicenda e soprattutto i fatti giuridici. Abbiamo annunciato, parleremo di nuovo del processo dell'Aquila al militare stupratore Tuccia. Dopodomani c'è l'ultima udienza, siamo in collegamento con l'avvocata che ci racconterà che cosa succederà questo giovedì. Pronto? Sì, buonasera. Siamo del centro antiviolenza dell'Aquila, che come ricordiamo si è, insomma, ottenuto di essere riconosciuto parte civile, quindi sta accompagnando lei in tutto questo percorso ed è veramente una grande cosa, insomma, perché il processo, no, ricordiamo, è stato svolto a porte chiuse, per cui almeno c'è stata la presenza delle compagne e delle donne del centro antiviolenza che l'hanno accompagnata in tutta questa, non so come chiamarla, questa tormentata vicenda, ecco. E quindi, insomma, volevamo sapere, giovedì un po' si chiudono i giochi, quindi Ma giovedì è l'ultima udienza di un processo che, come ricordavate, si è celebrato a porte chiuse, un processo comunque caratterizzato da una significativa celerità, e non soltanto perché si svolge in ambito di giudizio immediato, ma anche perché è stata volontà del collegio quella di procedere speditamente. E giovedì è l'ultima udienza e sarà un'udienza importante perché ci sarà, oltre l'esame di due consulenti medici che sono portati dalla difesa, verrà sentito anche l'imputato Francesco Tuccia, dopodiché si procederà alla discussione finale, e quindi questo significa che all'esito di quell'udienza ci sarà anche il dispositivo di sentenza, quindi un momento significativo, un momento che speriamo sia un momento che renda giustizia a quello che è successo alla giovane studentessa stuprata e quasi uccisa da, come ricordavate voi, Francesco Tuccia, un giovane militare, quindi da un appartenente alle forze dell'esercito italiano. E sarà un momento importante, come lo sono stati tutti i momenti che hanno caratterizzato questo procedimento, perché c'è la presenza significativa di tante donne, che non sono solo le donne del centro antiviolenza dell'Aquila, ma sono donne giunte da varie città, da varie realtà italiane, che sono venute a riconoscersi in un'esperienza assolutamente condivisa, quindi che non è l'esperienza di testimoniare la solidarietà alla giovane ragazza, ma è l'esperienza di riconoscere che ogni qualvolta viene violentata, stuprata, malmenata una donna in qualunque parte del paese, è una storia che riguarda tutte noi. Quindi la presenza di questa parte civile così significativa, ma è anche così rara, no? Nel panorama dei processi di questo tipo in Italia, speriamo che sia l'inizio di un nuovo modo di condurre questo tipo di processi, perché noi speriamo di aver rappresentato anche un argine a quel meccanismo che purtroppo continua a funzionare in questo tipo di processi, un meccanismo per il quale la donna, persona offesa dal reato, il più delle volte si ritrova a subire un'altra violenza e a essere portata sul banco degli imputati. Questo nel processo che si sta per concludere all'Aquila, diciamo, è stato un meccanismo che, per quanto avviatosi, è stato abbastanza contenuto, e io credo che sia stato abbastanza contenuto anche per la presenza forte e significativa di tante donne. Sì, diciamo che infatti questo aspetto evidentemente ha contato, e sicuramente giovedì ci saranno ancora, so che stanno scendendo anche non solo da Roma ma anche dal nord, quindi ci sarà una forte presenza di donne. C'è anche l'associazione di Tivoli che è nata proprio dopo questo stupro, che ha aperto, so che vuole aprire, insomma, uno sport all'antiviolenza, per cui ci sono delle cose che si sono mosse. Noi ci siamo interrogate da Roma, avendo seguito, insomma, anche alcune di me personalmente questo processo, su quello, su forse come è stato importante essere lì tutte insieme, come è stato per lei, ma soprattutto anche per noi, e che giovedì probabilmente sarà una giornata molto difficile, ci dicevamo, perché ovviamente una sentenza non risolve niente, insomma, una sentenza non ci ridà niente, però ci rendiamo conto che in queste situazioni ci sono forse quelle che noi viviamo come contraddizioni, ma quando subisci qualcosa del genere, andare in tribunale è anche un modo per dire che queste cose, questi fatti esistono, sono atroci, sono continui, sono non ci sono modi per affrontarli, nel senso che molte volte siamo sole, che stanno tagliando i fondi ai centri antiviolenza, tagliano i fondi ai centri di ascolto per le donne che subiscono violenza, per cui quello che ci rimane è il tribunale, e però lì davanti siamo riuscite, probabilmente, non so se tu sei d'accordo, a creare una rete tra noi che ci ha dato forza, che ha dato forza a lei, e che ci permetterà di reagire e di dire che, insomma, che è ora che basta, che queste cose non devono, come diciamo da sempre, insomma, non devono più accadere, e che le donne insieme possono cambiare le cose, possono darsi forza e possono reagire. Sì, questa rete ha sicuramente funzionato, perché si è creata immediatamente ed è stata importante, io credo, è stata importante per la giovane donna, è stata importante per noi, per ognuna di noi che sente che quella storia fa parte anche della nostra storia, certo. Quindi un po' quello che dicevamo, non è una testimonianza di solidarietà dal di fuori, ma è un volerci stare dentro completamente. Ed è importante anche perché appunto i centri antiviolenza sono tra i pochissimi luoghi che ormai si occupano di contrasto alla violenza cosiddetta di genere e, come si diceva, sono ormai luoghi maltrattati anch'essi dalla stessa violenza, mi viene da dire, perché sono ormai privi di risorse. L'ultimo centro antiviolenza che è stato costretto a chiudere è quello di Rimini e si chiude proprio per mancanza di fondi minimi, non perché manchino le volontà e le energie di tantissime donne. Noi siamo uno di quei centri, un centro che ormai è privo di finanziamenti e che in qualche modo comunque cerca di continuare ad offrire tutto il contributo che ha offerto finora, superando anche tutte le difficoltà legate al periodo che abbiamo alle spalle. Quindi questa esperienza, la sentenza di giovedì, che al di là di quello che conterrà e non potrà che essere, io auspico una sentenza di condanna, però mi auguro che porti anche il segno di un altro modo di affrontare questo tipo di processi, che sia monito per il futuro, per le aule di tribunale e perché le violenze commesse nei confronti delle donne non siano poi lasciate appunto nel chiuso delle aule o semplicemente narrate da quella che è la stampa comune in una maniera assolutamente rispettosa nei confronti delle donne stesse. Quindi credo che sia stata una grande occasione, anch'io chiaramente mi auguro che non ce ne debbano essere più, però sono anche abbastanza realista, chiaro, certo. E so che continuiamo a vivere un tempo segnato assolutamente dalla violenza degli uomini. Sì, infatti. Allora io adesso insomma ti ringrazio per averci un po' raccontato cosa succederà giovedì. Comunque giovedì mattina noi seguiremo il processo tutto il giorno, aspetteremo insomma anche la sentenza. Sfumiamo la fine di questo audio, ripeto, audio preso da Il Martedì Femminista e Lesbico di Radio Onda Rossa, due giorni prima della sentenza al Tribunale dell'Aquila. Arriva un messaggio a questo proposito, insomma un messaggio che ritengo abbastanza importante: mentre quello schifoso di Vittorio adesso è rimasto impunito, anzi promosso, la polizia può stuprare e la vicenda di Joy ormai dimenticata, militari assassini. Ricordo la vicenda della ragazza migrante Joy rinchiusa in un CIE e violentata e dopodiché perseguitata dalla non solo dalla giustizia ma in generale da tutti gli organi di stampa perché si era osata denunciare il militare che l'aveva stuprata all'interno delle mura del CIE. E quindi insomma adesso effettivamente la notizia non è più da nessuna parte e il militare in questione non è stato condannato. Ritorno solo chiudendo questa vicenda decisamente sgradevole, ricordando appunto questa riflessione che si può fare al di là della notizia della condanna a 8 anni per questo stupro brutale, selvaggio e mostruoso. La questione è soprattutto quella del fatto che da nessun giornale, quasi nessun giornale se non dalla Repubblica edizione locale, si dà notizia della condanna, mentre invece si era data ampia notizia a tutti i fatti, a tutti i particolari di cronaca, i particolari morbosi che sempre interessano agli scrivacchini. Poi della condanna e dell'effettiva colpevolezza del militare non viene data nessuna notizia. Vorrei sottolineare come appunto in questo caso la presenza del centro antiviolenza dell'Aquila come parte civile, ma anche la presenza delle compagne che in tutta Italia, L'Aquila e Roma soprattutto, si sono mobilitate per tenere viva l'attenzione su questa vicenda, abbiano potuto portare innanzitutto solidarietà alla vittima e in secondo luogo la possibilità di una visibilità di una vicenda che altrimenti sarebbe rimasta completamente fuori dai riflettori. Adesso continuiamo con la musica, poi concluderemo la nostra puntata perché sono già le 16:43 e quindi siamo in chiusura. Forever. L'ultima notizia di questa puntata, notizia insomma che è un po' un aggiornamento di quello che sta succedendo nella nostra zona, in particolare nella Val di Susa. Già in settimana scorsa si era data notizia dai microfoni della radio di questa faccenda. Quello che sta succedendo, in poche parole, è il fatto che a causa di tutti i tagli la regione Piemonte sta minacciando di chiudere il reparto maternità e ostetrice dell'ospedale di Susa, ospedale che è chiaramente molto centrale, perché si tratta di un ospedale che serve tutta l'alta valle, la media valle di Susa, e quindi la sua chiusura non solo potrebbe essere insomma un pericolo per quanto riguarda le questioni di salute più emergenziali, ma soprattutto riguarda insomma la possibilità per i cittadini della valle di avere un servizio che è un loro diritto. Insomma, quello che stava succedendo nelle settimane scorse è che la regione Piemonte ha dato un comunicato stampa in cui dichiarava una volontà elettorale e non una promessa, neanche un insomma un impegno vero, ma semplicemente una promessa elettorale di mantenere aperto l'ospedale, e tra le motivazioni per cui voleva tenere aperto in particolare il reparto di ostetricia era il fatto che in previsione del cantiere della TAV ci sarebbero stati più lavoratori, e appunto tutta la logica dei servizi al cittadino viene a cadere, perché ovviamente l'unica cosa che è importante sono i servizi per la grande opera, è una specie di compensazione. A partire da questo, le donne la settimana scorsa erano venute a Torino in regione, le donne della valle, a portare 5.000 firme raccolte per quel mantenimento di questo reparto, e per dare conclusione, insomma, per continuare questa lotta, quello che è successo ieri, sabato 2 febbraio a Susa, è stato un partecipato corteo per ricordare ai cittadini e alle cittadine quello che, insomma, quello che era importante, quello che era la minaccia per la salute. E tra le altre si è presentata al corteo la sindaca di Susa, Gemma Amprin, insomma, sempre tenuta che si è sempre tenuta a distanza, sempre tenuta in polemica con tutto il movimento NoTav, e quindi insomma si è fatta la sua passeggiata elettorale. E nonostante il fatto che lei dichiari che l'ospedale e il reparto di ostetricia sia importante, che lei lo vuole mantenere, però non toglie, ciò non toglie che il finanziamento di opere come la TAV sia la principale fonte dei tagli rispetto alla sanità. E, visto che sono le 16.52, io vi lascio ancora con un pezzo musicale, poi chiuderò con una lettura di una poesia che viene dall'Egitto, e spero insomma che questa lettura possa dare qualche spunto. È una traduzione a mia personale cura di una poesia scritta in inglese, insomma, adesso vi lascerò all'ascolto ancora dei Dresden Dolls. I've been feeling as a coat hanging pretty as a picture of a person on a fresh island. The gang bang, it would fit a sutures where his magic jobs and not to be. Questo particolare pezzo è dedicato agli ospiti in studio che sono passati oggi a tenermi compagnia. Mandy goes to med school. Next big thing, let's start in with a test of your intelligence and zest for the girls are productive up and down and round about and out the back. Keep your mouth shut tight, the lights are staying out, but no sweat. I ain't like an actor. Just how many fictional. He's got an ice ring. La lettura vi comunico un messaggio che ci è arrivato sul cellulare di Blackout, un messaggio che parla appunto della questione dell'ospedale. Visto che sto scendendo adesso da Chiamonte, scrive l'ascoltatore, ospedali si chiudono, ma oggi nel cantiere, virgolette, lavorano, quindi soldini ci sono. Salutiamo Antonio, insomma sappiamo bene come i soldini per le cose che gli interessano ci siano, li conosciamo bene. In generale, insomma, aspettiamo che le questioni si dipanino da sole per mostrare, insomma, alla gente come le compensazioni vadano a funzionare solo in loro, nella misura in cui funzionano per i loro voleri, i voleri, insomma, della lobby del cemento, insomma, quelli che conosciamo. Passiamo quindi a presentarvi la poesia in chiusura di trasmissione. È una poesia di Amira Elwaki, ragazza egiziana. Questa ragazza dedica la poesia all'amica, amica che è stata una delle prime testimone sugli stupri avvenuti al Cairo qualche giorno fa durante le manifestazioni di piazza, stupri di gruppo che hanno colpito in particolar modo le donne che si recavano in piazza a manifestare. Non il vostro campo di battaglia. Questo corpo non è un campo di battaglia su cui potete combattere la vostra guerra, neanche una piazza nella quale si può indurre una protesta. Questo corpo non è un'esposizione per la quale sia richiesto il vostro parere, o una colonna di giornale che sostenga la vostra interpretazione di libertà di pensiero. Questo corpo non è una fonte di riferimento per il vostro comitato di ispettori del linguaggio, e neanche uno schermo per una miriade di prodotti sul vostro nastro trasportatore.